9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, cari ascoltatori, il Gattaccio vi augura un buon venerdì 26 di agosto, fa gli auguri ad Alessandro, visto che oggi è Sant'Alessandro, e vi introduce al tema del giorno. Siamo fedeli, sia pure in questi giorni agostani, al metodo che ci siamo dati dall'inizio della manovra bis, di dedicare ogni puntata della giornata a uno dei capitoli della manovra bis, per vedere insieme a chi ne sa di più, a chi fa girare i numeri, e insieme oltretutto a chi ha diverse opinioni politiche da una parte e rappresenta interessi diversi dall'altra, come stanno le cose, come si articola il confronto e cosa aspettarsi in merito all'ipotesi che la manovra bis possa essere, una volta che uno ha capito come funziona nella sua complessità di norme, ma possa essere eventualmente aggiornata o modificata. Apparentemente in questi giorni il cantiere è ferve di confronti all'interno del PDL, tra PDL e Lega. Su qualche quotidiano trovate stamattina notizia di una telefonata che sarebbe giunta Premier Berlusconi ieri da parte del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che in questa settimana si è ben guardato dal partecipare al torneo delle modifiche, è rimasto in montagna e, se sono fondate queste discrezioni, il Ministro dell'Economia avrebbe detto al Presidente del Consiglio: tieni conto, te lo dico dalla montagna, che il più di queste ipotesi di modifica che vedo mulinare sui giornali, che vedo fiorire sulle bocche di esponenti del PDL, per quello che mi riguarda sono del tutto inaccoglibili, sono fantasiose, sono frutto della invenzione di inesperti, di chi non ha la minima idea di come girino i numeri del bilancio pubblico e di quali siano poi gli effetti di medio-lungo periodo delle modifiche che propone. Un problema in più, quindi, che si aggiunge al Presidente del Consiglio, scusatemi, che da una parte si trova con richieste di modifiche molto profonde, ne abbiamo parlato più volte, li richiamo solo, quelle del gruppo dei cosiddetti dissidenti, del sottosegretario Crosetto, dell'onorevole Stracquadanio, di Isabella Bertolini, che sostengono essere tutta sbagliata questa manovra nelle scelte di fondo del contributo di solidarietà, cioè nell'aggravio della curva del prelievo IRPEF sui redditi personali, e contropropongono invece gli interventi sul tema di cui parliamo oggi, cioè quello delle pensioni di anzianità e molte più privatizzazioni e anche alcune proposte shock, come quella per esempio a cui stanno lavorando di un emendamento che chiederebbe a tutte le amministrazioni pubbliche un piano credibile per il quale in 3 anni le piante organiche si diminuiscono fino al 25%. Quindi fronte ai dissidenti che avanza richieste di modifica profondissime, ma comunque è tutto un fiorire. È evidente dal voto di ieri, per esempio in commissione, che le norme per accorpare, eliminare le province sotto i 300.000 abitanti e sotto i 3.000 km quadrati, di cui abbiamo già parlato in una trasmissione, non fanno breccia nel PDL, non si è convinti per niente. Il Premier ha fatto uscire ieri sui giornali l'ipotesi che o tutto o niente, quindi bisogna tagliarle tutte per verificare in effetti come la si pensava in commissione. La commissione ha accantonato il voto e non si parla più neanche quindi di ridurre le 29. Detto questo, oggi tentiamo di capire invece come e perché in molti tra coloro che chiedono una modifica sostanziale per migliorare strutturalmente i saldi di finanza pubblica, ancorando a prospettive più credibili l'azzeramento del deficit da una parte, e dall'altra ritengono che questa manovra di riduzione del perimetro della spesa debba evitare di colpire ulteriormente redditi disponibili, come invece avviene ancora una volta con la manovra per il contributo di solidarietà, ma anche per la via libera alle addizionali locali nel 2012 per contemperare i tagli di 6 miliardi alle autonomie, altro capitolo su cui è evidente che la maggioranza stenta molto a tener fede alle impostazioni iniziali grazie alle proteste che fioriscono nel PDL di Formigoni, di Alemano, di tanti altri. In realtà vediamo di capire perché questo tema delle pensioni di anzianità attira tanto coloro che la pensano come me. Qualche numeretto, perché i più dei numeri li faranno gli ospiti che ora vi vado a presentare. L'anno scorso l'INPS ci dice che ad aver ottenuto la pensione di anzianità tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi sono stati circa 111.000 lavoratori e questa, aspettate un secondo, questa è la quota che mi ero ricavato e che hanno ricavato i colleghi del Sole sul totale di coloro che sono andati in pensione di anzianità che riguarda il nord, perché dovete sapere che questi anni il 63,7% degli assegni di anzianità è appunto erogato ai lavoratori residenti al nord, e questo perché naturalmente al nord si entra prima sul mercato del lavoro, quindi se ne esce prima. Come sapete, attualmente la somma delle età di contributo, di età anagrafica di contributi versati, è la cosiddetta quota 96. Chi propone l'accelerazione quote per maturare i diritti per i trattamenti di pensione di anzianità propone di accelerare molto il passo per cui si passa da 96 a 97, eccetera, propone di fare balzi in avanti verso quota 100, più o meno come si fece con lo scalone Maroni, che proponeva da un 31 dicembre a un 1 gennaio l'aumento di 3 punti del requisito sommato di età anagrafica e di anni di contributi versati. Ricordate che poi fu abrogato dal governo di centrosinistra, ma il governo di centrodestra oggi stenta a ritornare a quella stessa impostazione. L'età media dei trattamenti del 2010, quando ovviamente i requisiti erano di un punto più basso rispetto alla quota attuale, di coloro che sono andati in pensione, è stato di 57,8 anni per i lavoratori dipendenti, 58,8 anni per gli autonomi, che hanno un aggravio di un anno per anno. La domanda è giusto e saggio battersi, come fa il governo che ha evitato l'accelerazione delle quote previste per i trattamenti di anzianità? È giusto e saggio evitare questa accelerazione? Perché da una parte si dice coloro che sono prossimi ad aver maturato diritti per la pensione di anzianità non gli si può toccare questa certezza, o invece è più giusto pensare a che cosa significa dare la pensione a men che sessantenni per molti decenni, e invece di chiedergli di continuare a lavorare qualche anno in più, gravare ulteriormente sulle spalle di coloro che sono le vittime più dolorosamente cariche di sofferenza della crisi di questi anni, e cioè i giovani che stentano a entrare nel mercato del lavoro, le donne che stentano a entrare nel mercato del lavoro, i giovani e le donne del mezzogiorno. Perché non assumere una prospettiva intergenerazionale, e perché non fare un po' di conti da questo punto di vista? Non solo ci si porta a casa bei saldi sulla finanza pubblica in termini di miliardi di euro ogni anno strutturali, ma soprattutto si assume una prospettiva più compatibile con una crescita equilibrata. Questo è il mio punto di vista. Non avevo tempo per darvi tutti i numeri, vediamo i diversi punti di vista invece che si confrontano con noi. Abbiamo innanzitutto collegato Giorgio Santini, che è il segretario generale aggiunto della CISL, che saluto e ringrazio. Buongiorno Santini. Buongiorno agli ascoltatori. Abbiamo Massimo Garavaglia, che è vicepresidente della Commissione Bilancio, appartiene alla Lega Nord. Buongiorno Garavaglia. Buongiorno. Fabio Pammolli, che anche oggi ci assiste come ieri, presidente del CERM, Competitività, Regolazione e Mercate, e dirige l'IMT, quindi Centro Studi di Dottorato, come ho detto ieri, che è all'avanguardia in Italia, perché è uno dei pochi centri di eccellenza capaci di attirare ricercatori da tutto il mondo, mentre questo è un paese da cui invece i migliori se ne vanno. Buongiorno e grazie a Pammolli. Buongiorno. Allora, io utilizzerò Pammolli per le cifre che non vi ho dato all'inizio, però prima vorrei brevemente sapere da Santini e da Garavaglia come la pensano e perché pensano che coloro che lamentano il difetto della manovra, come il difetto dell'accelerazione delle quote per i trattamenti di anzianità, essere invece una cosa buona, perché loro la difendono. Quindi Santini, il punto di vista della CISL su questo è che è proprio così sbagliato avere una prospettiva di accelerazione delle quote per i trattamenti di anzianità? Guardi, allora, sul tema della previdenza in questi ultimi anni ci sono stati praticamente ogni anno degli interventi che sono andati nella direzione di sostanzialmente allungare l'età pensionabile. Cito il collegamento con le aspettative di vita, cito la cosiddetta finestra di un anno introdotta lo scorso anno, aggiuntiva, cito anche ultimamente a luglio la prima manovra ha allungato di altri 3 mesi queste finestre, diciamo, di uscita. Quindi sostanzialmente noi siamo dentro e Sacconi, un lo dico non per interromperla, le do subito la parola, e Sacconi dice la somma complessiva di questi interventi è una macchina che magari ha bisogno di solo qualche manutenzione, ma non è una macchina che ha bisogno di ulteriori potenziamenti, dice il ministro. Sì, in effetti sostanzialmente i tre meccanismi di stabilizzazione del sistema previdenziale, che come tutti i sistemi previdenziali è fatto di contributi e di prestazioni che devono stare naturalmente in equilibrio, i tre elementi di stabilizzazione sono oggi presenti nel sistema, perché sono sostanzialmente il regime contributivo, cioè avrò quanto ho versato, sono l'età pensionabile ragguagliata alle aspettative di vita, e il meccanismo è stato innestato e dal 2013 sarà, diciamo così, anche praticamente in atto, e poi c'era il meccanismo della parità tra uomini e donne, che con più gradualità, ma anche questo viene impostato. Quindi noi abbiamo tendenzialmente un sistema che tenderà all'equilibrio, e avrà casomai il problema che citava lei all'inizio, che il regime contributivo collegato a poco lavoro, per esempio per i giovani, può dare ai giovani qualche problema nel futuro, ma questo è un problema, diciamo, che in questo momento lasciamo un attimo sullo sfondo. Le anzianità sono collegate al fatto che la gente ha effettivamente lavorato. Allora, se era giusto, sacrosanto, togliere delle anzianità completamente anomale, lei ricorderà le baby pensioni nel settore pubblico, nei 15 anni e i 19 anni per andare in pensione, che era chiaramente un'anomalia e che nel 95 finalmente è stata superata. Qui stiamo parlando di anzianità che sono ben oltre i 35 anni di lavoro effettivo, molto spesso sono ai 40 anni. E quindi andare oggi a poggiare una manovra sostanzialmente solo per fare cassa, perché dal punto di vista del sistema previdenziale, ripeto, esso sta sostanzialmente equilibrandosi, francamente ci pare una scelta che abbia sicuramente profili di iniquità rispetto ad altre scelte possibili, che ci consigliano di dire non fate questa scelta, perché si tratta di gente che, ripeto, ha lavorato, prevale al nord, perché al nord le opportunità lavorative storicamente si sono profilate anche in età molto, molto giovane, quindi ai 15, ai 18, prima dell'obbligo scolastico fosse avanzato, la gente andava a lavorare perché c'erano più opportunità, quindi si trova ad avere i 35, i 40 anni anche con meno di 60 anni molto, molto spesso, ma da questo punto di vista dobbiamo sempre fare i conti anche, per esempio la statistica che lei citava dei 57,8 anni medi non tiene conto che a quella maturazione va comunque aggiunto adesso in ogni caso un anno e tre mesi, perché da quando si matura il requisito, quello anche della finestra, quello dei 96, ma quando lo si può quota, esercitare passa, va aggiunto poi un anno e tre mesi in cui si deve comunque rimanere a lavorare, quindi in realtà una certa accelerazione c'è già stata in questi anni. Ecco, noi pensiamo che in questo momento rispetto, ecco, tenga anche presente, dico un'ultima cosa perché è curioso poi anche in questo paese, quello che si risparmierebbe tra virgolette in minor pensioni pagate, si rischia di doverlo spendere in ammortizzatori sociali, Giannino, perché le faccio un esempio. Quando fu introdotto lo scorso anno la quota di un anno, la finestra di un anno dei 12 mesi in più, ci fu una quota di salvaguardia per le persone che erano già in mobilità, ed erano 10.000 persone che sarebbero andate, potevano andare in pensione con i vecchi requisiti, senza cioè l'allungamento di 12 mesi. Una legge successiva ha dovuto intervenire dicendo, siccome molta gente non ci arrivava ai 10.000, erano di più di 10.000, ha dovuto introdurre un meccanismo che a quelli che erano già purtroppo in cassa integrazione o in mobilità e che non arrivavano a maturare i requisiti con la nuova finestra, è stato aggiunto un ammortizzatore sociale per arrivare a maturare i requisiti della pensione. Quindi dobbiamo stare molto attenti, vista anche la congiuntura che purtroppo non è positiva, abbiamo circa 500.000 di persone in cassa integrazione, che quello che teoricamente si risparmierebbe, ripeto in modo iniquo, sull'anzianità, si andrebbe poi sostanzialmente a spendere purtroppo in ammortizzatori sociali. Quindi per questi motivi noi diciamo le fonti di risorse ulteriori si possono cercare da altre parti, poi se vuole possiamo entrare anche nel merito. Questo punto non va utilizzato per fare cassa. Il profilo con cui guardare il sistema previdenziale è il profilo se la sua struttura è in equilibrio, tendenzialmente in equilibrio, e adesso possiamo dire da un po' di anni, negli ultimi anni, la struttura previdenziale è tendenzialmente in equilibrio per i tre meccanismi che le ho rappresentato un attimo fa. Ora, io sul tendenzialmente in equilibrio, si tratta delle proiezioni di qui ad anni. Per il momento ho constato che noi continuiamo ad avere una spesa previdenziale che è superiore di 2,3 punti alla media dell'Unione Europea. Dalle tabelle delle manovre governative leggo che la spesa previdenziale italiana è prevista passare dai 230 e poco più miliardi di euro l'anno del 2010 ai 270 e oltre nel 2014, e leggo che in questo intervallo temporale il contributo che al bilancio annuale degli enti previdenziali viene da trasferimenti, quindi dalla fiscalità generale e non direttamente dai contributi sociali, passa ad un ordine di grandezza annuale di 90-92 miliardi a superare i 100 miliardi di quale treno. Quindi secondo me un problema continua a esserci ed è molto rilevante, primo. Secondo, ho visto due papers proprio di questa settimana, mi sono andato a farmi la ricerca sulla piattaforma dove escono le ricerche degli economisti di tutto il mondo, ce ne sono tre o quattro che sono quelle dopo la Pearce Review in cui si pubblica quando si è economisti. Ho visto un recentissimo studio che io ho considerato molto interessante, che cosa ha comportato l'aumento dei requisiti per i trattamenti di anzianità in paesi come Germania e Austria, e rispetto ai saldi che si è realizzato, quindi risparmiando su quasi 200.000 trattamenti o più di 200.000 trattamenti, che sono la media italiana di questi ultimi anni in cui sono stati modificati i criteri, come ci ha appena ricordato Santini, in paesi come Germania e l'Austria si sono verificate tre cose. Primo, che il saldo è rimasto comunque ampiamente positivo, perché si accelera molto l'innalzamento della partecipazione al mercato del lavoro in fasce di età avanzata, che sono quelle, insieme ai giovani e alle donne, su cui di più l'Italia deve innalzare la partecipazione al mercato del lavoro, perché siamo 10, 15, 18 punti lontani dai paesi europei in cui si lavora di più nelle classi dai 55 ai 65 anni. Secondo, è vero che si crea anche disoccupazione aggiuntiva, come diceva Santini, ma le risorse da destinare al fatto che contemporaneamente si innalza anche la quota di disoccupati rispetto a prima in quella fascia d'età, quando cresce l'occupazione di quella fascia d'età, è comunque molto inferiore rispetto ai saldi che si porta a casa con l'accelerazione dei requisiti di anzianità. E siccome, viste le esperienze di quei paesi, la risposta che io do stesso come elemento di riflessione a ciò che ci diceva Santini, dice: attenti che voi credete solo di portare a casa più occupazione, ma vi dovete portare a casa anche più sostegno poi al fatto che le imprese non è che battono le mani dal continuare a tenere occupati gente di quell'età, perché i turnaround, come si vede, tutte le volte che c'è una crisi d'impresa si finisce per fare gli scivoli, anzi per mandarli ancora prima rispetto ai requisiti di anzianità maturati dei lavoratori, perché altrimenti non si riesce ad assumere gente più giovane, eccetera eccetera. Tutto vero, ma i numeri che vedo io sui paesi avanzati che hanno fatto questa scelta restano numeri a favore. Dopodiché io sarei per accelerare, anche perché sposterei da 65 a 67 quantomeno anche in maniera rapida il tetto per i trattamenti di vecchiaia, perché la prospettiva è di arrivare più presto verso i 70. Io la dico così, so che chi è in ascolto, lo vedo dagli sms, reagisce dicendo: Giannino, non c'è lavoro e basta con lo schiavismo del lavoro. Ragazzi, io non so cosa dirvi, la pensiamo diversamente. Sentiamo però come e perché, a giudizio della Lega, che su questo la pensa, per le dichiarazioni dei suoi leader, come i sindacati, insomma, è per la linea del no, perché bisogna mandare in pensione la gente che sta maturando i requisiti. Malgrado questi numeri, Garavaglia, io non faccio questioni politiche di rapporti nella maggioranza, le chiedo come e perché la Lega si è convinta del fatto che su questo non bisogna mollare e bisogna che chi sta maturando con questo passo temporale sui requisiti va mandato in pensione, ed è sbagliato proporre una visione diversa. Garavaglia, prego. Ma guardi, Santini ha parlato come un libro stampato. Sull'istituto in particolare dell'anzianità vanno fatte tre considerazioni. La prima è che è un istituto che va a morire automaticamente, nel senso parliamo dell'ultima fascia di di persone che ha iniziato a lavorare, andare in fabbrica dopo le scuole medie a 14 anni. Fascia che ha iniziato nei primi anni 70, dopodiché dopo qualche anno si va a lavorare dopo le superiori e quindi non arrivi mai ad avere i 40 anni di attività e quindi l'anzianità di fatto non esiste più. È solo questione di traghettare questa ultima generazione e quindi è un falso problema sotto questo aspetto. Il secondo punto riguarda proprio la questione sociale. Ora io vivo qua in provincia di Milano, se giro con un compasso da casa mia 10 chilometri ci sono centinaia di aziende in ristrutturazione. In queste aziende in ristrutturazione, meno male che c'è l'anzianità, non ci fosse l'anzianità non si riesce a fare le ristrutturazioni, proprio perché questo consente a questa fascia di età di evitare di rimanere sulla strada. E se qualcuno pensa che con la crisi che c'è una persona a 58-60 anni riesca a ritrovare lavoro per 5 anni, vive sulla luna. Quindi questo è il vero problema sociale che rende di fatto infattibile questa operazione oggi. E questo si lega al terzo punto, che è quello di carattere economico. Da questa operazione si ricava qualcosa di significativo, circa 2 miliardi, solo se lo si fa tutto in una botta, cioè solo se si elimina tutto dal primo gennaio dell'anno prossimo. Ma anche qui vuol dire essere sulla luna. Pensare appunto con la crisi che c'è di farlo in una botta sola è fantascienza pura, per cui bisognerebbe farlo gradualmente. Si risparmiano quei 100 milioni l'anno su una manovra di 45.000, 100 milioni l'anno fa ridere e crea solo contrasti sociali inutili dal punto di vista dell'effetto economico. Se a questo poi aggiungiamo le ultime due cose, che da un lato sulle pensioni, come è stato detto, è già stato fatto di tutto e di più, sul fatto che poi sul bilancio dello Stato la spesa pensionistica continua a salire, bisogna distinguere quello che è l'erogazione delle pensioni e quelli che sono gli ammortizzatori sociali, che sono quelli che purtroppo invece crescono per ovvi motivi legati alla crisi. Mentre l'INPS in sé è in equilibrio e non ha problemi e non ha bisogno di interventi. E l'ultima questione è appunto dove reperire le risorse, cioè quando si fa una manovra di questo tipo ognuno deve dare per la sua parte. Sul lato pensione è già stato fatto molto, perché soprattutto la riforma definitiva, cioè quella che aumenta l'età pensionabile automaticamente con l'aumento dell'età della vita, che è la vera riforma, che è strutturale, definitiva e mette in equilibrio automaticamente il tutto. Insomma, di lì abbiamo già dato. È per questo che noi come Lega ci siamo concentrati su questa tassa sull'evasione, che è l'abbiamo finita ieri, è una cosa secondo me assolutamente accettata e accettabile da tutti, che porta ben più risorse di quelle che vengono dall'ennesimo intervento sulle pensioni. Parliamo di 3-4 miliardi l'anno. Ma come funziona brevemente la tassa sull'evasione? In super soldoni si prende il patrimonio, si moltiplica per un'aliquota e esce la tassa. Questa tassa però si paga solo se detratta da quella tassa le tasse pagate l'anno prima, o meglio la media di 3 anni, ottengo un saldo superiore a zero. Cioè chi ha un patrimonio e paga le tasse non paga niente. Chi ha un patrimonio che è piovuto giù dal cielo perché ha evaso paga. Va bene, scommetto che non molti a casa hanno capito, però il meccanismo io l'ho capito, è una forma di patrimoniale, insomma, corretta e ritarata. Detto questo, ora andiamo in pubblicità. Io ringrazio intanto le ragioni del no all'intervento, quindi quelle del sindacato, esposte da Giorgio Santilli, segretario generale aggiunto della CISL, e quelle di Garavaglia, vicepresidente della Commissione Bilancio, che a nome della Lega, la Lega è il partito che su questo è diventato più intransigente, come avete sentito. Io continuo a ritenere che un partito che aveva sostenuto lo scalone Maroni e dice no all'idea di potere e dovere accelerare verso l'innalzamento delle quote d'età, perché è una tendenza giusta, Io lo capisco, io la penso diversamente. Quando si dice il bilancio dell'INPS in equilibrio è un artificio contabile, e mi dispiace doverlo dire, perché ai miei studenti devo ricordare che senza quegli 90-100 miliardi di euro ogni anno nelle entrate dell'INPS come trasferimenti dallo Stato, l'equilibrio del bilancio non c'è. Se mi si osserva ulteriormente che bisogna distinguere l'assistenza e la previdenza, io sono d'accordo, ma come sanno tutti quelli che sanno far girare i numeri del bilancio dell'INPS, non è che sono i 90 miliardi l'anno sono l'assistenza, sono molto meno sul totale dei trasferimenti, la quota parte. Quindi il problema è che continua a esserci bisogno di un contributo molto sostanzioso di molti punti di PIL ogni anno per la parte corrente al sostegno del la spesa previdenziale nel nostro paese. Questo io credo che siano fatti. Intanto andiamo in pubblicità e quando torniamo le vostre opinioni e un po' di numeri invece da parte del professor Fabio Pammolli, da parte di chi è convinto non solo che sia necessario per far cassa, perché non è solo questo il punto, ma di chi è convinto che sia proprio giusto in nome degli interessi dei giovani italiani e della crescita italiana fare il contrario di quello che fino a questo momento avete sentito dire, legittimamente difeso da chi è parte politica e parte sociale e quindi ha molto più rilievo di quanto ne abbiamo noi poveretti liberisti su questo. Sentiamo rapidamente Alessandro da Bergamo, per esempio, su questa questione delle pensioni di anzianità. Sostiene che è meglio tenere tutto così com'è, oppure c'è qualche fondamento negli argomenti di chi come noi sostiene il contrario? Alessandro, prego. Sì, buongiorno. Normalmente io sono completamente d'accordo con le sue tesi, questa volta mi trovo in completo disaccordo, in quanto qualcuno prima di me negli interventi ha già detto parecchio di quello che avrei voluto dire, quindi mi limito a riportare la mia esperienza personale. Io 35 anni fa, dato che ho raggiunto i 35 anni di contributi, ho fatto contratto con lo Stato, per cui oggi avrei dovuto andare in pensione. Con le leggi attuali, quindi non quelle che si propone oggi di modificare ancora, se tutto va bene andrò in pensione a 63 anni, il che vuol dire avere già aggiunto 8 anni a quello che era stato il contratto iniziale. A questo punto non mi sembra corretto che uno Stato che sia in crisi continui ad andare, visto che questi sono gli unici posti dove riesce a reperire fondi sicuri, a chiedere alle solite categorie, sono i dipendenti e sono i pensionati, perché questi sono gli unici soldi sicuri che lo Stato riesce a reperire. Nell'ultima manovra che è stata fatta è stata sbandierata tutta una serie di soldi da andare a recuperare, sono tutti annunci, dopo quando servono i soldi veri sono sempre solo 3-4 le categorie dove si vanno a raccogliere soldi: dipendenti, pensionati, aumenti dell'IVA, benzina e tutte queste cose. Va bene Alessandro, però tenga conto che non è che l'intangibilità del contratto vale per i lavoratori dipendenti, dovrebbe valere per tutti, però lo Stato i contratti se li rimangia ogni secondo, voglio dire, la categoria più vessata da questo punto di vista per retroattività di modifiche che vengono assunte attraverso norme che violano quasi sempre la Costituzione, per esempio il contribuente, e lo Stato non fa altro che ripensarci sui regimi contrattuali, per così dire, a cui siamo sottoposti. Capisco che lei dice sul lavoro è ancora più sacro che altrove, però lo Stato fa così con tutti noi, non è che lo fa solo con lavoratori dipendenti. Sentiamo ancora Giorgio da Savona, prego Giorgio. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno Giannino, ma io chiedevo questo, io ho 37 anni, arriverò a 40, ho 37 anni di contributi, voglio arrivare a 40 e arriverò a 59 anni a quel punto, ma cosa volete chiedere ancora da noi, sinceramente? Ma a 59 anni mi dice cosa volevo chiedere? A 56 anni arriverò a 59. Sì. Ho sentito la proposta di Crosetto e Company di farci arrivare a 67, addirittura 65. Ma perché allora non diciamo ai nostri politici mettono una soglia di non eleggibilità dopo due legislazioni e poi entrano anche loro nell'arena competitiva del lavoro e raggiungono i 35, i 38, i 40 anni come chiedono a noi, a vedere un pochettino cosa succede, cosa sono capaci a fare, visto che questo paese, nonostante le innumerevoli risorse, non sono capaci attraverso manovre di metterlo sulla retta via, voglio dire, perché non è così impossibile. È un paese di infinite risorse, è un popolo straordinario che ci vediamo così defraudare a chiedere a chi ha già dato tantissimo. Io cosa ne pensa lei a riguardo? No, no, cosa ne pensa? Giorgio, io sapevo con certezza che aprire i microfoni, ce ne sono tantissimi di telefonate e di messaggi, hanno tutti un segno, tutti. La pensano tutti come Giorgio che ci ha appena chiamato da Savona e il suo radioascoltatore che l'ha preceduto, cioè dicono tutti no, no e no. So che è così. Devo dire che questo peso, secondo me, ha convinto la Lega, ha convinto tutti quelli che hanno paura del voto dei 200.000 che ogni anno maturano i requisiti. Io resto convinto del mio dovere di parlare a nome della maggioranza, degli altri. Non manco di rispetto, credo, né a Giorgio né a tutti gli altri che stanno maturando i requisiti, lavoro duramente anch'io, sono un autonomo, non ci andrò mai, non potrò mai permettermi di andare in pensione, so cosa vuol dire lavorare. Temo che ci sia il punto di vista della maggioranza, più che dei 200.000 che maturano i requisiti ogni anno, da tenere in considerazione. Professor Pamolli, allora cominciamo a vedere quanto ci costano secondo lei e quanto potrebbe venirci da interventi di questo tipo, in una prospettiva appunto che è di giustizia, non solo di cassa. Alcune considerazioni, ho ascoltato con grande attenzione e ho il massimo rispetto sia per il compasso di Garavaglia che per le considerazioni di Santini, il compasso intendendo la situazione di crisi che vive il sistema industriale. Ho un po' meno attenzione per le sollecitazioni che vengono dal nostro amico dipendente pubblico, perché se noi oggi prendiamo un primo dato, vediamo che la pensione media annua nel settore pubblico è molto più elevata, quelle che sono state corrisposte, rispetto alla pensione media annua corrisposta ai dipendenti del privato. Stiamo parlando di una media rispettivamente attorno ai 25.000 euro contro una media di 15.000 euro. Quindi una prima bipartizione, almeno nelle considerazioni, la farei con riferimento a questi due grandi comparti. Una seconda considerazione, oggi noi abbiamo il combinato disposto per l'Italia di una maggiore longevità, circa 2 anni in più rispetto all'Europa allargata, e di una minore permanenza in attività. Si compongono queste due dimensioni per dare un punto molto chiaro, oggettivo. Lavoriamo circa 4-5 anni in meno rispetto ai nostri partner europei. Aspetti, questo dato bisogna ripeterlo. Noi, cari ascoltatori, convinti del fatto che non vi si debba chiedere, lavoriamo, come ha detto il professor, 4-5 anni in meno rispetto alla media. Prego, professore. Che siamo più longevi e abbiamo avuto negli ultimi anni, e lo vediamo dall'andamento delle pensioni corrisposte, abbiamo circa 3,5 milioni di italiani che sono andati in pensione con poco più di 50 anni di età. Allora, io ho ascoltato anche con grande attenzione, perché poi sono considerazioni corrette quelle di Santini. È vero che ci sono stati molti interventi ed è vero anche che gli interventi, soprattutto quelli degli ultimi 2 anni, hanno ripristinato una tendenza che era quella della impostazione della Dini. Ora il problema è che i 3 fattori di stabilizzazione citati da Santini sono fattori che interverranno nel lungo periodo. È una stabilizzazione asintotica, ma dove la convergenza avviene nel lungo periodo. Quando si dice che abbiamo introdotto il metodo contributivo per tutti, bisognerebbe anche dire che il metodo contributivo entrerà a regime allo stato attuale tra il 2030 e il 2035 e che solo nel 2045 tutte le pensioni in erogazione saranno contributive. E allora questa è una convergenza, visto il costo politico elevato, che è stato considerato troppo elevato in ogni istante della nostra vita politica e istituzionale, comprese le deleterie marce indietro rispetto allo scalone che si sono realizzate nel 2007 con il passaggio agli scalini, anche in quel caso facendo prevalere un interesse particolare di una particolare coorte di lavoratori rispetto a un interesse generale che era anche quello di dare delle informazioni corrette a tutti i cittadini rispetto alla sostenibilità del nostro sistema pensionistico. Quindi è vero che c'è ad esempio la convergenza al contributivo, ma questa avviene a babbo morto, diciamo noi in Toscana. La seconda considerazione riguarda anche l'adeguamento dei requisiti anagrafici di pensionamento, perché sia la legge 122 del 2010 sia la legge 102 del 2009 vanno nella direzione giusta, ma questo adeguamento inizia unicamente nel 2015 Si prevede che in fase di prima approvazione, di prima attuazione, ci sia un adeguamento di 3 mesi al massimo ogni 3 anni. Questo significa che da qui al 2028 avremo un adeguamento di 1,8 anni. Se consideriamo il dato che ho presentato all'inizio, capiamo che c'è una, come dire, incongruità di questi interventi rispetto alla nostra situazione attuale. Quindi c'è un problema di breve periodo, sicuramente. Il problema di breve periodo però va letto in una prospettiva più generale. Allora, perché una volta tanto non pensare casomai a un intervento sistemico che abbia una velocizzazione della convergenza a quanto di buono è stato previsto in teoria all'interno del nostro sistema pensionistico, quindi un'eliminazione delle pensioni di anzianità, un passaggio rapido, se non immediato, rapido, più rapido di quanto non sia stato previsto fino ad oggi, alla soglia dei 65 anni come requisito anagrafico e ai 40 anni di contribuzione, e a questo punto avremo risparmi significativi che, se applicati a INPS e INPDAP e se applicati a uomini e donne, portano, secondo le nostre stime del CERM, fatte insieme al collega Nicola Salerno, portano nell'arco di 5 anni a risparmi nell'ordine dei 60 miliardi di euro. Possiamo un secondo ripetere, dal combinato disposto di interventi commisurati a un certo tipo di accelerazione, questa cifra, avete capito cosa ha detto Pamoli? 60 miliardi di euro in 5 anni, 60 miliardi di euro, ci ha chiamato per questo. Cominciamo con Fabio da Forlì. Prego Fabio, favorevole o contrario? Io sono favorevole, buongiorno Giannino. Come favorevole? Matto. Sì, sì. Allora, io la seguo in maniera pressoché costante e sono quasi sempre d'accordo con lei. Anche in questa occasione, pur essendo io un lavoratore dipendente, mi rendo perfettamente conto che sia necessario un innalzamento dell'età pensionabile. Le mie perplessità vengono però da una situazione che è la tipica situazione italiana. Mi spiego meglio. Io e mia moglie siamo 2 lavoratori dipendenti, abbiamo un buon stipendio, abbiamo messo in atto una serie di welfare familiari che vanno da pensione integrativa, fondo di categoria, riscatto degli anni di laurea che a un certo punto dovrò interrompere se verranno tolte le pensioni di anzianità, e a quel solo che quello che mi fa essere perplesso, pur essendo d'accordo con lei, è questo. Il vero stato sociale italiano è la famiglia, e noi abbiamo una bimba piccola. Faccio un esempio banalissimo: il costo degli asili. E cosa significa giorno d'oggi? Abbiamo detto 1000 volte, dimostrato numeri alla mano, come la famiglia sia la vittima più grave del fisco comparato rispetto a qualunque paese di altro ordinamento. Ma però questo con i requisiti di anzianità più elevati in tempo più rapido, che c'entra? C'entra nel senso che, allora, più in là andiamo con l'età, più viene meno un sostegno alla famiglia. Allora bisogna riformare tutto lo stato sociale italiano. Ho capito, però non è che capisce se io le pago la pensione prima, da questo punto di vista io do un contributo semplicemente a far funzionare meglio, perché lei sta a casa, si occupa prima del carico familiare. Fabio, sì, ho capito. No. Qui, allora, su questo siamo d'accordo. Infatti dico, se riusciamo con i numeri a dimostrare che questo sistema, come lei dice, funziona, allora io sono perfettamente d'accordo. Ok, capito l'osservazione. Oscar da Milano, questo l'hanno passato secondo me perché pensano che chiamandosi come me, chiamandola a Milano, la pensa come me, ma non credo affatto. Oscar, prego, la sua esperienza. Sono io, buongiorno a tutti. Giannino, in effetti l'unica cosa che condividiamo probabilmente è il nome di battesimo. Mamma mia, va bene. Al di là di questo, io ho 58 anni, sono un ex dirigente, ho lavorato per 31 anni in una decina di multinazionali. Nel 2007 ho dovuto lasciare l'azienda, per motivi che le lascio facilmente immaginare, e da allora io sto campando con i quattrini che ho accumulato in quei 31 anni, perché il mio tentativo di entrare come indipendente, come consulente, libero professionista nel mercato del lavoro, per il momento, data probabilmente anche la contingenza assolutamente funesta dell'economia generale in Italia, nel settore dei servizi, non ho avuto l'opportunità di incamerare praticamente alcun quattrino e ho solo a questo punto 58 anni, da 4 anni fuori dal mercato del lavoro, nessuna possibilità di rientrare in azienda da dipendente o da dirigente, perché ovviamente alla mia età chi è che mi prende? Chiaro. Però ho solo ancora 31 anni, 32 forse, di contributi. Secondo lei le mie due famiglie attuali, perché sono divorziato, il mutuo, gli assegni di mantenimento e il resto, io come me la cavo? La risposta che le do io, mi ha sentito dire che l'innalzamento delle quote, dei tetti per l'età in cui permanere al lavoro, deve per forza immaginare che l'innalzamento dell'occupazione in quelle fasce d'età dove è più debole va accompagnato al sostegno che io chiamo non lavoro ma al reddito, che cresce come problema anche proprio in quelle fasce in cui noi, se adottiamo la mia linea, andiamo a innalzare la quota di occupati sul totale della fascia di popolazione di quell'età, perché questa è la dimostrazione che viene da ogni paese avanzato e perché questo rientra comunque in un discorso che dovrebbe essere quello di una riforma generale degli strumenti di integrazione al reddito, che non vogliono più difendere il lavoro dov'era e com'era, che è da sempre ciò che pensano più degli italiani, più dei politici, ma che invece deve sostenere il reddito quando il lavoro non c'è e più rapidamente possibile consentire razionalizzazione alle imprese, espulsione di manodopera, perché questo significa che più rapidamente poi se ne crea di nuova aggiuntiva. Sono due discorsi diversi ma intrecciati, e ci mancherebbe che io manco di rispetto all'esperienza di ciascuno di voi che dolorosamente talvolta tocca con mano le difficoltà quando si iniziano ad avere un certo numero di anni e il mercato non tira perché la congiuntura non funziona, come nel caso di Oscar che ci ha appena illustrato la Milano. Professor Pamolli, allora riprendiamo da dove l'avevo interrotta, una risposta anche a chi sostiene che non è giusto in termini intergenerazionale, perché si chiede sempre a chi ha già dato alla fine di un percorso lavorativo e soprattutto poi dice ma poi in realtà come rispondiamo a coloro che le aziende vogliono mandare via al più presto possibile, figuriamoci se li vogliono tenere fino alle quote di anni che voi sostenete. Ripeto, massimo rispetto per le condizioni che sono state esemplificate, ci sono dei lavoratori che hanno un'anzianità contributiva oggi superiore ai 35 anni ma che sono ancora sotto l'età che potrebbe essere considerata l'età cosiddetta pivot per l'accelerazione della convergenza ai nuovi requisiti anagrafici. Benissimo, se ci sono dei casi di disoccupazione riferiti a un sottoinsieme di questa coorte di lavoratori, perché non saranno tutti disoccupati, viva Dio, ebbene introduciamo delle condizioni per questa convergenza, e le soluzioni tecniche ci sono e sono molteplici, che si facciano carico di tutelare questa coorte di lavoratori, ma non disegniamo tutto il sistema sull'anomalia di alcuni importanti sottoinsiemi che vanno, ripeto, tutelati. Sono in linea con le sue considerazioni, ma alcuni accorgimenti potrebbero essere fatti addirittura nel congegnare la convergenza. Ho alcune brevissime considerazioni. La prima, mi riallaccio al suo punto sulla sostenibilità finanziaria dell'INPS. In realtà qui stiamo parlando della sostenibilità finanziaria dell'intero sistema pensionistico e, aggiungo, sanitario, di fronte a un trend demografico ineluttabile. Noi oggi ci stiamo concentrando su che cosa accade hic et nunc, ma paradossalmente il dibattito è miopico, si sta focalizzando sull'oggi, quando invece la trasmissione credo abbia svolto e stia svolgendo una funzione molto importante nel dirci che siamo di fronte a decisioni individuali e familiari molto complesse, perché basate su decisioni di allocazione intertemporale del risparmio, rispetto alle quali decisioni il contributo informativo che viene dato ai cittadini è, a mio avviso, ancora troppo basso. Basti vedere lo sviluppo inadeguato del pilastro ad accumulazione reale nel nostro paese, i fondi pensione. Perché dico che c'è un problema di sostenibilità finanziaria dell'intero sistema di finanziamento pensionistico e sanitario? Perché tutta la promessa pensionistica fatta dal pubblico al cittadino si fonda su un teorema, un vero e proprio teorema, che è il teorema di Aaron, che fa sì e che sostiene che la sostenibilità finanziaria del sistema cosiddetto pay as you go, a ripartizione, quindi dove sono coloro che lavorano che pagano effettivamente, liquidano effettivamente gli importi che vengono poi travasati nel sistema pensionistico, ebbene questo sistema si fonda su una variabile demografica fondamentale, cioè la numerosità della coorte dei lavoratori che contribuiscono al finanziamento a un certo istante temporale delle pensioni è superiore alla coorte, alla numerosità della coorte precedente. Questa non è più la realtà del nostro sistema demografico, questa era la realtà italiana ed europea negli anni 60. Ad oggi noi abbiamo una restrizione della coorte di coloro che lavorano. Allora, se facciamo delle proiezioni su come stanno andando, proiezioni molto conservative, assumendo la stabilizzazione dell'incidenza delle pensioni pubbliche sul PIL al 14-15, purtroppo l'andamento dell'economia porterà questa stabilizzazione attorno al 16%, e però consideriamo anche la componente sanitaria, che ha una analogia con la parte pensionistica perché interessa gli individui nell'età avanzata, ebbene vediamo che da qui a 15-20 anni avremo dei dati impressionanti. Cioè avremo che, assumendo anche una convergenza verso gli obiettivi di Lisbona sui tassi di occupazione, ebbene abbiamo che la spesa pubblica per pensioni e sanità finanziata da ciascuno occupato va a valori intorno al 70% del PIL pro capite. Allora, se noi dobbiamo avere un futuro di pensioni basse, di tassi di sostituzione bassi, non anticipando la necessità di costruire con appropriati incentivi fiscali un'altra parte che oggi non è stata discussa, che è la parte della previdenza complementare, certo. Pensiamo al programma tedesco del Rister e degli effetti che ha avuto. Con che cosa? Con una semplificazione del prodotto, con una definizione stringente dei requisiti di ammissibilità agli incentivi fiscali, con una forte enfasi su una agevolazione fiscale rivolta ai redditi medio-bassi, allora, non ai redditi alti. Io la devo interrompere. Quello che è chiaro è che nel futuro, quando si parla di 10-15 anni, eccetera, immaginare che per ogni lavoratore oltre il 70% del suo prodotto vada a finanziare previdenza e sanità significa non avere l'idea di un paese che ha prospettive di fronte a sé. Questa ragione, quella del bilancio intergenerazionale, è una ragione pressante, fotte poco, perché è chiaro che contano di più i 200.000 che ogni anno maturano i requisiti. È di questi che la politica miope ha paura. Io sono per una politica che guardi lontano, probabilmente più lontano della mia stessa attesa di vita attuale. Non me ne importa niente. Continuo a battermi per una manovra in cui l'accelerazione della pensione di anzianità dia quei 60 miliardi in 5 anni invece che bastonare nei redditi noi poveri, poveracci. Questo è il punto di fondo. Mi dispiace, i signori che difendono la conservazione non mi hanno convinto. L'appuntamento è lunedì, linea al giornale radio.